Piazza 24, i gialli della storia. Napoli, rione Casenuove, zona Secondigliano. Le forze di polizia cercano un boss camorrista. Si nasconde in una di queste case. Trovarlo non sarà una cosa facile. Carabinieri, aprite! Vuole una pistola. Gli serve per vendicare il padre. Così urla il ragazzino. Urla nella sola maniera che gli hanno insegnato. E questo non è un problema della sua famiglia. È un problema che riguarda tutti noi. Un problema enorme, perché quel ragazzino, un domani, potrebbe diventare un altro killer a soldato dalla camorra. Traffico di droga, appalti, riciclaggio, traffico di armi, prostituzione, usura, racket. Questo è il panorama del business della camorra, per un giro di denaro che corrisponde quasi a quello della legge finanziaria. E la camorra è un fenomeno antichissimo, che alcuni fanno risalire addirittura al Medioevo, ma che certamente è già attivo e parzialmente documentato nel 600. Un mondo violento, con regole indecifrabili, che avvelena un'intera società, non soltanto a Napoli, e che provoca spesso vittime innocenti. Oggi, a Mix 24, vogliamo provare a raccontarlo, a raccontare la sua evoluzione a partire dalla grande emigrazione verso gli Stati Uniti della seconda metà dell'Ottocento e il ritorno in patria di molti italiani dopo la caduta del fascismo. In questa ricostruzione ci avverremo della testimonianza del giornalista Gigi Di Fiore, lo storico Isaia Sales e il procuratore Raffaele Marino. ...29 milioni di esseri umani. Il più grande esodo migratorio della storia moderna è stato quello degli italiani. Dalla sola Campania partono oltre 3 milioni di uomini, donne e bambini. Nascosti tra loro ci sono molti camorristi. Con l'avvento del fascismo, in tanti emigrano negli Stati Uniti. Nel 1943, con la caduta del regime e l'arrivo delle truppe alleate a Napoli, in molti ritornano ed è come se si aprisse un vaso di Pandora. 1943 rappresenta sicuramente uno spartiacque, perché Napoli, da città assistita, diventa città imprenditoriale. Cioè, tutti si danno da fare. Il livello più basso è la borsa nera. Acquistare e scambiare. È la città descritta dalla pelle di Curzio Malaparte, dalla Napoli milionaria di Edoardo, e in questa realtà si insediarono personaggi legati ad ambienti popolari e non. A guidare il governo di occupazione dall'inverno del 1943 è il colonnello Charles Poletti. Sin dal suo arrivo ha intrecciato ambigui rapporti con le organizzazioni mafiose. In Sicilia ha scelto molti mafiosi per la carica di sindaco. È il caso del boss Calogero Vizzini, che diventa sindaco di Villalba. A Napoli, Poletti tollera le attività illegali dal gangster Vito Genovese. La principale occupazione è rubare le merci trasportate dagli autocarri dell'esercito alleato con la complicità di ufficiali e soldati. È così che sarà allevata un'intera generazione di potenziali criminali. Migliaia di scugnizzi lavorano nel contrabbando e molti di loro saranno i camorristi di domani. In quella Napoli del dopoguerra, quindi tra seconda metà degli anni 40 del Novecento agli inizi degli anni 50, cominciarono ad arrivare anche degli italo-americani espulsi dal loro paese, che erano stati referenti ed erano stati boss mafiosi italo-americani negli Stati Uniti. In Italia arriva Lucky Luciano, il capo indiscusso di Cosa Nostra. Luciano si trasferisce proprio a Napoli in una bella casa in un quartiere elegante a Via Tasso. Fa una vita da star del cinema, continuamente intervistato e circondato da belle donne. I suoi affari non cambiano. Racket della prostituzione, estorsioni, ma soprattutto il traffico di droga. Napoli è una piazza ideale. C'è una forza lavoro numerosa e molto disponibile. Sono i contrabbandieri di sigarette. Il grosso business che fece fare un primo salto di qualità a quel nucleo delinquenziale dell'immediato dopoguerra fu quello del contrabbando di sigarette. Uno dei grossi contrabbandieri di sigarette di quel periodo fu Michele Zazza. Venne definito l'Agnelli del contrabbando proprio perché disse una volta ufficialmente e pubblicamente che il contrabbando di sigarette era per Napoli come la Fiat per Torino, perché dava lavoro a migliaia e migliaia di persone. Ci furono delle proteste, ci furono dei manifesti, ci furono dei cortei di contrabbandieri e famiglie di contrabbandieri che protestarono contro la repressione accanita e serrata che veniva fatta contro gli scafi blu e contro le paranze di contrabbandieri. È una vera e propria guerra tra guardia di finanza e contrabbandieri che solcano il golfo per prelevare dalle navi a largo le casse di sigarette. È l'epoca degli scafi blu e delle sigarette vendute ad ogni angolo di strada. Sistema per sopravvivere per migliaia di napoletani. Il contrabbando consente ai cartelli della camorra di accumulare enormi guadagni. Saranno utili quando al trasporto e smercio delle sigarette si sostituirà quello della droga. La vera svolta della camorra nel secondo dopoguerra viene con l'avvento e con l'arrivo di un personaggio che si chiama Raffaele Cutolo. Raffaele Cutolo era in carcere da quando aveva 22 anni per un omicidio sulla cui lettura ancora non ci sono univocità e fondò la nuova camorra organizzata, un'organizzazione criminale di tipo centralizzato, piramidale, che voleva ricreare la camorra ottocentesca e voleva rifarsi alle analoghe strutture piramidali sia calabresi che siciliane. La costituì in carcere. Sono 1500, forse anche di più, i morti della guerra scatenata a Napoli e in Campania da Raffaele Cutolo. Sono gli anni 80, una mattanza sanguinosa per un progetto criminale. Far diventare la camorra come la mafia siciliana. Un solo capo. Lui, o professore, come lo chiamano i suoi affiliati, chi non obbedisce, finisce ammazzato. Cutolo chiede devozione assoluta e illimitata. In cambio, stipendi per tutti, assistenza alle famiglie e avvocati ai detenuti. È la nuova camorra organizzata. Un progetto rivoluzionario per la camorra, un'organizzazione da sempre divisa e frammentata. È una delle cose nella storia della criminalità più incredibili, perché riesce a fare un'organizzazione di massa e a comandarlo dal carcere. Non ha lasciato il carcere se non per un anno e mezzo, dai 20 anni in poi, ed è il capo della più efferata organizzazione criminale che Napoli e la Campania ha conosciuto negli ultimi secoli. La data viene fatta risalire all'ottobre del 1970, alla nascita della nuova camorra organizzata, e si dice che furono i calabresi a rivolgersi a Cutolo, che lo vedevano intelligente, avveduto, di grande ascendente nei confronti dei piccoli delinquenti campani in carcere, a chiedergli di fare società. Chi entra a far parte della nuova camorra organizzata può finalmente sognare l'ascesa sociale, la ricchezza. Sottoproletari, piccoli delinquenti e sbandati vengono attratti dal verbo di Cutolo. Raffaele Cutolo, per lei che cos'è? Raffaele Cutolo per me è un uomo serio, semplice, sincero e reale, e è molto affezionato a questa terra di Ottaviano. È sempre stata una persona che ha aiutato tutti quanti, non solo di Ottaviano, ma bensì per tutta la Campania. Chiunque ha bisogno che si rivolge a Raffaele Cutolo è l'unico che si metterà a disposizione e aiuta tutti quanti la gente. È come il nostro santo protettore. Siamo nati con lui e moriremo con lui. I primi affiliati furono fatti nelle carceri, nel carcere di Poggioreale e nelle altre strutture carcerarie, e nacque così la cosiddetta camorra massa. Perché egli riuscì a creare una sorta di cassa mutua, di società di mutuo soccorso, inizialmente fra i detenuti. E attraverso i suoi traffici illeciti lui riusciva a mantenere le famiglie dei carcerati e quindi diciamo ad affrancarle dal bisogno. La NCO e Cutolo dava dignità di camorrista al piccolo delinquente, al piccolo rapinatore, sottoproletario delle aree periferiche e delle aree più degradate di Napoli e della provincia di Napoli. Si dice lei in Campania disponga di 3.000 uomini che farebbero di tutto per lei. Ciò significa che ho seminato il bene. Ecco, voi avete studiato, significa che ho seminato il bene, no? No, potrebbe aver seminato interessi, si dice, traffico delle sigarette, della droga. No, ne sono contro la droga, sono contro i sequestri. L'ho dimostrato con fatti. Contro le estorsioni? Ma l'estorsione, vedete, se... ma l'estorsione cosa intendete, ecco? Ma perché questi che vendono questi grandi industriali, dietro ogni reato c'è il crimine, non lo sapete, no? Dietro ogni fortuna c'è il crimine. Quindi come se la sono quella la vera camorra. Quindi voi ritenete di fare giustizia sottraendo a chi ha accumulato ricchezza? Ai strozzini ce lo faccio. Il legame con gli affiliati è impressionante. Pasquale Barra, suo braccio destro, sarà ricordato come o animale, mangia il cuore di un nemico di Cutolo dopo averlo ucciso a coltellate. In un'aula accanto stanno processando Pasquale Barra, che viene definito il lungo braccio violento della camorra. Pasquale Barra è amico mio da piccolo, siamo compari, amico mio da sempre, è uno sfortunato. Però chi gli va sulla strada lo trova. Come killer, come lo trova? Queste parole non le capisco, ecco, questo killer, non lo trova, voi che fate? Se uno vi dà una botta, voi che fa? Vi vuole ammazzare, voi che fa? E all'epoca l'impegno diciamo, delle forze di polizia, dello Stato in generale, delle istituzioni nei confronti della camorra non era quello di oggi. Ricordo perfettamente che arrivavano dei rapporti giudiziari sulle Brigate Rosse, sui NAP, su Prima Linea che pure operavano in Campania, che erano estremamente precisi, dettagliati, con un dispiego di mezzi, di energie, di risorse assolutamente incomparabile rispetto alle energie profuse nella lotta alla criminalità organizzata. Quindi non c'era ancora una piena coscienza del potenziale pericolo che rappresentava. Ci fu, credo, una sottovalutazione sicuramente all'epoca. Ma il vero colpo d'ala la camorra lo effettua con la ricostruzione dopo il terremoto dell'80, in Campania, cui arrivano l'equivalente di 60 miliardi di euro. Nel terremoto del decimo grado della Scala Mercalli muoiono più di 3.000 persone, ci sono quasi 300.000 senza tetto. Una tragedia che diventa una miniera d'oro per la camorra. Ancora Gigi Di Fiore, poi Marina Ferrara del Tribunale dei Minori di Napoli, Geppino Fiorenza dell'Associazione Libera Campania. E il dopo terremoto del 1980, un altro spartiacque negli affari della camorra napoletana. È in quel periodo che arrivano i grandi finanziamenti per la ricostruzione, che arrivano i grossi appalti su tutto il territorio campano e nascono quindi nuovi appetiti. La camorra negli anni Ottanta a Napoli città non aveva una forza imprenditoriale. Il terremoto consente alla camorra di fare questo salto imprenditoriale e quindi da un'attività, da una criminalità tutto sommato secondaria, localistica, molto limitata nel centro della città, diventa una criminalità di livello internazionale. È il punto di svolta. Materiali e forniture arrivano solo dalle aziende indicate da Cutolo. Chi si oppone muore. La camorra si infiltra in ogni settore della ricostruzione. Cutolo è il capo assoluto e si comporta come Totò Riina, il capo della mafia siciliana. La camorra assume qui una connotazione ancora maggiore di organizzazione criminale di tipo mafioso. Ci sono dei delitti preventivi di avvertimento, è il caso del sindaco di Pagani, Marcello Torre, che viene ucciso quasi come avvertimento a tutti gli altri sindaci, a tutti gli altri amministratori locali, che da quel momento in poi, per questa ripartizione di lavori e di grossi appalti, c'è da fare i conti con le organizzazioni criminali e con le organizzazioni camorristiche. Il 27 aprile 1981 viene rapito dalle Brigate Rosse l'assessore regionale della DC Ciro Cirillo. Pur di ottenerne la liberazione, elementi di spicco della DC e dei servizi segreti si rivolgono proprio a Raffaele Cutolo. è l'apice del suo potere, ma è anche l'inizio della sua fine. L'offensiva della magistratura contro 834 affiliati si conclude con condanne per 1500 anni di carcere. E quello che non farà il processo lo faranno i suoi nemici in una guerra di camorra. Era chiaro che un'organizzazione così pensata doveva per forza dar fastidio alle famiglie tradizionali, quelle nate col contrabbando di sigarette, quelle in rapporti con i mafiosi siciliani, e quando Cutolo chiese 50.000 lire come tangente per ogni cassa di sigaretta scaricata, ecco che esplosero la guerra. È la prima sanguinosa guerra di camorra. Non solo cutoliani contro nuova famiglia, ma anche stragi all'interno delle stesse alleanze. A Torre Annunziata, 14 killer arrivano in pullman mandati dai Bardellino Alfieri, fanno fuori 7 uomini del clan Giunta, un loro alleato, e non mancano innocenti coinvolti. Enrica Monico, una bambina di 12 anni, è colpita alle gambe. A Napoli la dissoluzione della NCO di Cutolo crea un mostro. Un insieme di bande criminali che useranno le strade e i vicoli della città per la loro personale guerra. C'è stato un impazzimento, in che senso? C'è stato uno scoppiamento di grossi clan che si sono divisi in vari sottoclan. Per cui, per assicurarsi l'egemonia sul territorio, si assiste a crimini di una violenza inaudita che forse prima non tanto si registravano. Non si guarda più a nulla. Quindi si spara nei centri abitati, in qualunque ora, pur di uccidere il rivale. Si rompe anche un tabù. I camorristi non si limitano a spacciare droga. Diventano loro stessi grandi consumatori di cocaina. E questo era un problema allora e è diventato oggi un problema impressionante, perché molti camorristi infatti assumono cocaina prima di andare a fare questi raid all'impazzata. E questo spiega anche la presenza di tante vittime innocenti in Campania, proprio perché molto spesso appunto non c'è neanche un obiettivo preciso, ma è il mitragliare all'impazzata tra la gente, come in tantissimi casi. I killer sono minorenni, purtroppo. Quando io sono arrivata in questo tribunale è capitato qualche omicidio, ma in ambito familiare, del ragazzo estremamente disagiato che non stava bene. Dopo invece abbiamo avuto omicidi di camorra, omicidi commessi nell'ambito di rapine, sempre commessi ovviamente da ragazzi minorenni. Io credo, ed è una ferma convinzione, che le mafie hanno molta paura di quelle realtà associative, di quelle parrocchie che funzionano, perché se le parrocchie funzionano, se le associazioni funzionano, bene, la possibilità di poter ingaggiare questi ragazzi, di poterli reclutare nelle loro file, diventa sempre più difficile. Dunque, è nella società civile, nelle associazioni, che va cercata una soluzione per smontare questo castello di omertà e criminalità. E in questo è fondamentale la riutilizzazione dei beni sottratti alla camorra e gestiti dalle associazioni come Libera Campania e Polis. In questo impazzimento è complesso e difficile immaginare e fare qualcosa. Per questo motivo è nata la Fondazione Polis, uno strumento operativo della Regione Campania che si pone a sostegno e ad aiuto delle vittime innocenti della criminalità e per il riutilizzo reale, sociale e istituzionale dei beni confiscati. Sul tema dei beni confiscati è inutile dircelo, siamo di fronte a una grande e importante sfida e la Fondazione si è posta a questo scopo, quello di aiutare a riutilizzare nel migliore dei modi i beni confiscati alle mafie, i beni confiscati alla camorra. Ciò che le mafie si sono presi con la violenza e col sangue, lo Stato se lo riprende col rispetto delle regole. Nello stesso luogo dove semmai un camorrista aveva il proprio centro di interessi, ritorna lo Stato, riprendiamo il bene, lo sequestriamo, lo confischiamo e in questo luogo metteremo un centro di accoglienza per donne, un centro di recupero per handicappati. Ecco, questo è il senso del recupero dei beni sottratti alla mafia, dei beni confiscati. E tra i beni confiscati c'è questo, un Peschito. È stato sequestrato e confiscato al clan dei Casalesi. Oggi è nato un centro di agricoltura sociale intitolato ad Antonio Di Bona, una vittima innocente di Nalcamorra, un agricoltore nello specifico, e oggi qui si producono queste pesche. Ne abbiamo realizzato una marmellata extra di frutta, a settembre produrremo vino. Ma ma la vera sfida è quella di modificare il modo in cui è letta la camorra. Bisogna raccontarne gli orrori, la violenza, la crudeltà e così modificare il DNA di un'intera città per costruire un futuro diverso. E questo è il nuovo obiettivo che Napoli si è proposta di raggiungere. Lo ascoltiamo dalle parole di Francesco Menditto, giudice del Tribunale di Napoli, e Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra e ora presidente di Polis. In Campania, a Napoli, è successo un miracolo importante, un miracolo unico in Italia. Tutti i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e comune si sono uniti insieme in un'associazione, in un'organizzazione, in un coordinamento. Ecco, chi ha perduto un figlio, una moglie, e vedeste, una cosa importantissima, c'è una vera e propria comunità, questo coordinamento dei familiari all'interno della Fondazione Polis, dove loro mettono a disposizione, trasformano il loro dolore in una testimonianza positiva. E noi che facciamo? Beh, una proposta importante, quella alle scuole, di adottare una vittima di criminalità. Anche questo è un percorso di speranza e positivo. Adottiamo una vittima. Cioè ogni scuola sceglie una sua vittima, la adotta, la studia e la racconta a tutti i ragazzi che vanno in quella scuola. Che è diverso a intestare la scuola Giancarlo, che è pure una cosa molto importante, bella, che ci fa molto piacere, ma è diverso che la scuola adotti Silvia Ruotolo, per cui tutti i ragazzi che passano la scuola sapranno chi è Silvia Ruotolo. Una cosa è parlare di legalità con formule così un po' vuote, un po' evanescenti. Una cosa penso sia parlare di legalità riempendola di contenuti, di storie nelle quali ognuno di noi può immedesimarsi. Io dico che una persona non è mai morta completamente fin quando verrà ricordata da qualcuno. Si muore nel momento in cui non esisti più per gli altri, nel momento in cui nessuno più ti ricorda, nessuno ti porta più nel cuore. Allora si muore veramente. Però poi questa dimensione privata senti il bisogno di diciamo trasmetterla o comunque di farla diventare pubblica, perché ti rendi conto che le modalità con le quali mia mamma, che si chiamava Silvia, che aveva 39 anni, che non ha più assistito al mio esame di quinta elementare e non assisterà alle mie nozze o alla mia laurea, o comunque ecco, deve essere condivisa con la città, perché come io non posso far finta che una storia così brutta non mi appartenga, così anche la città non può fare finta che un'ingiustizia del genere non sia avvenuta. E quindi è una ferita mia, ma una ferita dell'intera città. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.